Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. È venerdì. È venerdì. So che tu associ a questo giorno un particolare significato, ma in realtà è un venerdì, questo che si lavora il venerdì, sabato, venerdì. Comunque venerdì 26 febbraio, oggi un santo di quelli che dovrebbe in particolare far riflettere i politici. I politici, perché oggi è San Vittore. Aia. Che per chi non sapesse, a Milano, Milano San Vittore, storico per così dire, calcio Milano, di Milano legato a Tangentopoli, insomma tante. Però cari politici, dovrete invece di dire le tante sciocchezze che anche ieri avete ammannito a proposito del ce ne sono state parecchie di dichiarazioni. Qual è la più sciocchezza secondo te? Beh, dico che c'è una bella, mio modestissimo giudizio ovviamente, però una bella gara chi tra vince? La maggior parte dei paesi europei, un ministro dell'interno che dice a proposito dei ritmi sessuali, azioni contro natura, va a casa in due ore. Sodomiti! Alfano, sodomiti! Per quello che mi riguarda, papà, non ha l'idea, ecco, come può parlare un ministro dell'interno di un paese europeo. L'ha rispolverata un po' dal passato questa idea dei sodomiti, no? Beh, sai che il ministro Lorenzin... Ma non è che si può giustificare una cosa simile, cioè si può dire sei un caso umano, tu. La Lorenzin ha poi detto si riferiva no, all'utero in affitto, ha cercato di mettere... Ma non una... diciamo sciocchezze, cioè il ministro dell'interno non può avere un altro ministro che lo difende in quanto donna, se usa un termine di questo tipo, è ancora più patetico, come devo dire. Giovanardi poi? Giovanardi che ha detto? Ha detto... A questo punto legalizzeranno che cosa? Le unioni tra cani e padroni. Esattamente. Ma no, senatore, beh, facciamo un ragionamento no, per paradosso. No, questo credo. Ragionamento. Hai capito? Questi sono i politici. Hai capito? Questi che sono quelli che poi pretendono di essere rappresentanti di una cosa grandissima come la fede cristiana. Sentilo qui, Giovanardi. E la Chiesa Cattolica. Sentilo, Giovanardi. Che tu metti al numero due, però. Perché non è ministro? Perché come dal punto di vista del disprezzo. Alfano. Sentiamo Alfano, dai. The winner is. Alfano. The winner is. Ed è stato un bel regalo all'Italia avere impedito che due persone dello stesso sesso, cui lo impedisce la natura, avessero la possibilità di avere un figlio. Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica, vabbè, che credo. Ma dai, ma cosa la rivoluzione contro natura? Sai contro cosa diceva il grande Kenyatta, il fondatore dell'indipendenza del Kenya, di questi sedicenti cristiani che non lo sono per niente tranne che per interesse? Diceva così: quando sono arrivati gli occidentali, i bianchi occidentali, loro avevano la Bibbia, noi le terre, e ci dissero pregate, chiudete gli occhi. Quando le abbiamo aperto, loro avevano la nostra terra e noi la Bibbia. Ecco, questi sono i due che hanno parlato in questi termini, cioè Alfano, ecco, sono esattamente come quelli. Allora, insudiciano, insozzano il cristianesimo di cui pretendono i voti. Ecco, giusto perché è venerdì e vogliamo un clima. No, giusto di perché concordia. Bisogna reagire all'altezza dell'infamia che loro pronunciano. Allora, 800 24 00 24, parliamo se volete di questo. Con le unioni civili c'è anche l'aspetto politico, e cioè che Verdini di colpo fatto, d'ala. Il colpo d'ala, esatto. Verdini ha votato la maggioranza e quindi ha votato la fiducia, c'è una nuova maggioranza, però i voti non sono stati decisivi, se uno va a vedere in questa occasione. Lo sono il giorno in cui ci dovesse essere una fiducia sul filo del rasoio. Sì, sì, lo sarebbero, sì, ma sul voto di ieri c'erano 100 voti di maggioranza. Esatto. Poi c'è il contro natura di Alfano, ci sono i cattolici, Gandolfini, che fa il Family partito, Deo, dai diciamo, che Dinolfi, dai su, no, e io glielo chiedo tutte le volte da Dinolfi, lui mi piglia per il culo, dice sarà il primo a sapere. Pure loro la crisi di fede, naturalmente. Comunque, per voti. Gandolfini dice così, Gandolfini e Family Day. E ci ricorderemo del Premier in modo particolare, e dato che non noi, ma lui ha legato il suo futuro politico al referendum di ottobre, è quella una bella data nella quale ci ricorderemo chi avrà offeso. Sai come risponde Renzi? Oggi fa un colloquio a Repubblica e dice è una minaccia, effettivamente è una minaccia, cioè ci ricorderemo al referendum, è una minaccia, e noi andremo parrocchia per parrocchia a spiegare. Cari cristiani cattolici in ascolto, ma non vi viene qualcosa in fondo allo stomaco che sale, sentendo tutti questi politici da una parte e dall'altra che vi si contendono come vacche al foro boario. Cioè, capite che la strumentalità delle loro parole è così esplicita che chiunque dovrebbe essere chiaro. Magari un cattolico invece si schiera proprio per questo, non lo so, magari proprio per quello che sta succedendo e che ha visto. Io mi pongo una domanda. Tra un premier che dice andrò parrocca per parrocchia e dall'altro che fin dal primo giorno dice faccio un partito giusto per questo, francamente. Sì, sì, una po' la strumentalizzazione. Non lo so, ce n'è, io ricordo di aver letto che c'era un certo signore a cui chiesero: ma la politica, lo Stato, noi cosa dobbiamo fare? A Cesare quel che... apodote, in greco il verbo è chiaro: restituite allo Stato quel che è dello Stato e a noi quel che è nostro. Ecco, quindi un'altra cosa, non mi sembra che dicesse 2000 anni fa, ecco. Sì, più o meno. Vuoi sentire anche quella di Giovanardi, il cane, la donna? Facessi. Vuoi sentire che lo dice? No, sarebbe stato uno scoop clamoroso, ce la siamo tenuto l'audio. Mi era venuto un colpo, dai, sto scherzando. Giovanardi, il cane, donna, sì, il ragionamento è un po' con... sentire. Vabbè. Da adesso il tribunale di Genova, proprio 3 giorni fa, ha costretto un veterinario a pagare non il risarcimento del danno, ma il risarcimento morale a una signora che, sì, poiché il cane della signora l'intervento lo ha fatto zoppicare, sì, ha scritto nero su bianco che ha impedito il realizzarsi di un duraturo rapporto di vita familiare che questa signora aveva organizzato per il futuro con il suo cane. Allora... sentenza in nome del popolo italiano. E allora... poveretto. No, che qui è un risarcimento civile perché gli ha tolto l'affetto del cane. A proposito di cani, sai che Berlusconi pare sul Fatto Quotidiano c'è scritto che è arrabbiato per i cani. Altro che ama i cani, ama i cani. Pare che vada in giro per Arcole a dire basta, sti cani puzzano, ma è che sporcano. È la maniera per polemizzare con la Pascale perché ha questa nuova sua Lavinia di 21 anni. 21, ah, Lavinia Palombini, 21 anni. Sarebbe la nuova fiamma di Silvio Berlusconi. È quella per cui sarebbe. Se ne sono andati i fratelli Zappacosta. Sì, sì, sì. Vabbè, dai, vabbè, anche lì andiamo con pressione. No? Vabbè, però è una bellissima ragazza, 21 anni. Ma dai, mamma mia. Sì, sì, d'accordo. Va bene, e a me è piaciuta molto la frasetta che ieri, l'espressione che ha usato, il peraltro discutibile anche lui per l'evoluzione politica che ha avuto, Gaetano Quagliariello, intervenendo esattamente su questa delle unioni civili, e ha fatto un paragone con l'università. Dice: dopo aver votato questo emendamento al DDL Cilinà, è un po' come l'università che non sopporto più, perché avremo gli ordinari, cioè le persone sposate di sesso diverso, gli associati, cioè le persone che fanno, sì, unione civile, i contrattisti, gli eterosessuali che non possono fare unione civile, e infine i cultori della materia. A proposito di deliri, cioè i più liberi, cioè signor Presidente, anche i più sfigati. Sì, ecco, cioè, capisci che questo è il modo in cui i politici si trattano vicende, i diritti della gente. Non so, tutto questo alle orecchie, agli occhi di un magistrato che fino a poco fa, fino a dicembre 2015, è stata presidente del Tribunale per i minorenni di Roma. Chissà cosa suscita. È Melita Cavallo che è con noi. Buongiorno, buongiorno Melita. Buongiorno, Cavallo. Non sento molto bene però. E adesso cerchiamo di migliorare l'audio. Allora, tra l'altro Melita Cavallo che ha scritto da poco un libro, Si fa presto a dire famiglia. Lei raccoglie un po' tutte le esperienze, le storie di bambini, che, perché si parla di bambini, no? Anche questa, in questa legge. Se ne è parlato, certo, bene, secondo lei? Se ne è parlato in modo strumentale? I bambini sono non stati al centro? Se ne è parlato bene perché il loro interesse non è stato garantito con la cancellazione dell'articolo 5. Non se ne è parlato, non si è trattato bene. Perché dice così? Non è stato... Ma perché sono bambini che già esistono, che già vivono in famiglie omosessuali che però garantiscono loro la protezione, la tutela, l'ascolto, la relazione costruttiva, sono con la loro mamma e con la compagna della loro mamma che ha anche lei la responsabilità educativa su di loro, la considerano mamma a tutti gli effetti. Questi bambini hanno bisogno di avere anche giuridicamente il loro riconoscimento di figli. Lei è d'accordo quando si dice, passando la stepchild adoption, si sarebbe aperto alla corsa all'utero in affitto nei paesi assolutamente stranieri? Assolutamente no, sono due cose completamente diverse, completamente diverse. E poi la corsa all'utero è già esiste da anni ed è soprattutto posta in essere dalle coppie eterosessuali in cui la donna non riesce a partorire e abortisce continuativamente. Ecco, questo è già realtà da molti anni. E quindi questo non ha a che vedere, sono due cose completamente diverse. Sa che è stato un tema molto dibattuto, perché si dice, se si dà la possibilità di adottare il cosiddetto figliastro, si spingerà molte coppie ad andare all'estero per... No, sono due cose completamente diverse. La gente confonde perché non conosce l'argomento. Assolutamente no. Parlare di utero in affitto, anche questo è sbagliato, perché sottolinea la commercializzazione del corpo della donna, che avviene solo in alcuni paesi che non dovrebbero essere frequentati da italiani. Quindi praticamente, perché si deve parlare di gestazione per altri. Certo, o maternità surrogata. Anche maternità surrogata, ma la dizione più corretta è gestazione per altri. Senta, dottoressa Cavallo, Posso dire io, letto su Viva il giudice metatoniano, perché la chiarezza dei principi a cui fa rimento, dei termini con cui si esprime, fa giustizia di questa sarabanda delirante di interessi di parte, partitici, a cui invece loro hanno ridotto in Parlamento, temi che vanno affrontati con questi criteri, ma con questi, cioè... Però le chiedo questo, dottoressa Cavallo. Sa che si è spesso detto i magistrati si sostituiscono a una legge che non c'è, perché ci sono varie sentenze, lei insomma ha una storia e potrebbe raccontarci a riguardo, sentenze in cui, in mancanza di una legge, i magistrati ai tribunali hanno stabilito che figli di persone dello stesso sesso sono figli di due papà o di due mamme. O meglio, facendo riferimento alla legge 184. Nel testo approvato ieri, resta un riferimento alle sentenze. Dottor Giannino, il giudice applica la legge, la legge, non può inventarla, tra virgolette. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha applicato la legge 184, esattamente l'articolo 44 di questa legge, come modificata nel 2001. L'ha applicata in toto e ha tenuto presente, naturalmente, le sentenze di legittimità della Cassazione, le sentenze della Corte Costituzionale, le sentenze della CEDU, e quindi la motivazione è una motivazione molto ampia, molto ben articolata, tanto vero che è stata confermata in appello. Ma quindi non serve una legge a questo punto, andando per paradosso, no? Perché tanto... a parere di chi ha esteso tutte queste sentenze, la legge non serve, nel senso, la legge potrebbe regolamentare più ampiamente, potrebbe articolare meglio, potrebbe spostare questa formulazione che noi abbiamo applicato nella lettera B, che adesso, essendo le unioni equiparate, no? Potrebbe essere questa adozione portata all'articolo che parla del figlio del marito, del figlio della moglie, potrebbe essere anche il figlio nato, che vive in unione civile con il genitore naturale. Potrebbe essere fatto questo, ma sostanzialmente non cambia nulla, perché è possibile farlo già oggi. No, certo, infatti il fatto che esista la legge, ricordiamo, la legge 184, che dà la possibilità di fare di fatto quella che viene definita step child adoption, cioè di far adottare fare l'adozione del figliastro. È tutta questa discussione, però dottoressa Cavallo, lei che è un magistrato, l'idea che un Parlamento non decida e invece ci sono dei magistrati che, applicando una legge che già c'è, non rischiano di superare, bypassare, sorpassare il ruolo del Parlamento? Ma se applicano la legge, come sorpassa? È il Parlamento che ignora che c'è una legge che già consente al giudice di farlo. È diversa la situazione. È bello, perché in tre minuti uno abbatte tutto il dibattito che c'è stato sulla necessità di una legge, che testimonia quanto tempo inutile per ragioni strumentali, partiti. Sì, sono completamente d'accordo. Per lotte, per insomma, purtroppo hanno dato un esempio molto poco dignitoso del Parlamento al nostro, alla nostra collettività. Viva il giudice. Un po' è così. E che lo dica Oscar Giannino, viva il giudice, che non è mai tenero nei confronti dei magistrati, giudice, però in questo caso. Io non generalizzo mai, io quando sento parole scolpite così, in che cosa significa il rispetto di una legge che esiste, la sottrazione da parte del giudice, rispetto a quello che abbiamo visto in questi giorni, taccio e applaudo. Va bene, allora noi la ringraziamo Melita Cavallo, ricordo il libro, chi vuole approfondire per La Terza si fa presto a dire famiglia, dove il magistrato Melita Cavallo ha raccolto anche tutta una serie di storie che ha incrociato durante la sua vita da magistrato, ricordiamo fino a dicembre 2015, quindi fino a pochissimo tempo fa è stata presidente del Tribunale dei Minori a Roma. Grazie davvero. Insomma, abbiamo disintegrato un omofobo che continua a insultarmi da mezz'ora. Perché? Ignorante, nausabondo, stai zitto, vabbè, taci, fai venire alla nausea, capisci? Sei come Cecchi Paone, cioè siamo veramente, abbiamo alcuni. Sei come Cecchi Paone, ma poi è un insulto essere no, come Cecchi Paone. Per alcuni sì, per i deviati, vabbè, certo, convinti come Giovanardi e Alfano, capisci? Che no, dai, deviato Giovanardi e Alfano, certo, no. Perché no. Hanno una visione razzista e deviata, hanno un problema nel capire che cosa sono le tendenze, capisci, di genere. Comunque, ci chiama Laura da Ferrara, che sicuramente sarà meno dura del nostro, del tuo stalker. No, ma io lo dico perché mi preoccupo per loro, perché sono convinti loro di essere depositari, capisci, della via della verità e della vita. No, confondono questo con la religione. Ma sì, Dio, ma guarda e passa. Laura, buongiorno. Buongiorno, io vi sento molto poco, spero che voi sentiate me. Sì, noi benissimo. Cercherò di essere il più esplicita e succinta possibile. Giannino invita il cristiano a non farsi strumentalizzare e ricorda delle parole di Gesù che in effetti non sono di Gesù. Allora il mio invito, io sono una cristiana praticante, e innanzitutto l'invito è a Giannino, che è una persona molto capace e intelligente, a rileggersi il Vangelo. Nel Vangelo Gesù ci invita a perseverare quotidianamente nel rispetto del nostro prossimo. Amatelo come fosse, come foste voi. Non ci dice mai di mettere davanti noi stessi con i nostri egoismi, ma ci dice sempre di mettere davanti Dio, e in questo senso dobbiamo rispettare il prossimo. Quindi chi sta strumentalizzando sono le lobby gay, perché stanno mettendo davanti i loro egoismi a dispetto di qualsiasi cosa e a dispetto di quelli che Gesù invita a ricordare che sono i più deboli, ovvero i bambini. Allora io sono d'accordo che non vadano discriminati, e da cristiana non ritengo che nessuno debba essere discriminato, ma neanche debbono essere assecondati i palesi abusi contro natura, contro perché natura. Noi dobbiamo aiutarli, no, noi dobbiamo aiutarli a migliorare e a vedere prima di tutto il rispetto del prossimo. Cioè, perché un omosessuale perché sbaglia, Laura, Laura Giovanardi ha paragonato chi ha amore per una persona dello stesso sesso al rapporto tra padrone e cane, e lei mi invita a leggere il Vangelo. Lei, padrone e cane, vuol dire che avete qualcosa che non funziona nella testa se pensate che i rapporti tra esseri umani, sì, di affetto e di amore, siano paragonabili a quelli tra il padrone e il cane. Si vergogni! Oggi noi si vergogni! Ma non mi faccia ridere! Se confonde un omosessuale con un pedofilo, ha un problema nel capire ciò di cui parla. Aspetta, Oscar. Ma Laura. Può quanto vuole. Laura, aspetta. Ma Laura. Laura, un attimo. Si fermi. Adesso. Sono pure pedofilo. No, aspetta, Oscar. Laura, mi scusi. Laura, mi sente? Però Giannino deve tacere. Laura, mi sente? Lei non dice a me di star zitto, è chiaro? Niente, è degenerata. Laura, mi sente? Deve tacere. Perché io sono una cristiana, il Vangelo lo leggo. Beh, anch'io lo leggo. Mettilo davanti. Laura. Perché Gesù diceva anche. Laura, niente, non mi ascolta. Laura, non mi ascolta. Laura, lei non mi ascolta. Laura, lei non mi vuole ascoltare, quindi la saluto. Arrivederci, pubblici. Eccoci qui tornati, caro Oscar. Io volevo fare una serie di domande all'ascoltatrice. Aspetta, perdonate se ho, però sentirmi dire che sono io che devo leggere il Vangelo. Benissimo, non alzo più la voce. Questo non succederà. Ma no, succederà perché semplicemente perché io voglio semplicemente dire. Riflettete tutti sul fatto che pensate che chi ha affetto per una persona dello stesso sesso sia un degenerato pedofilo. E infatti avrei voluto sapere in un minuto da Laura credo si chiamasse, l'associazione omosessuale pedofilia, ma chiaramente la situazione non era controllabile, e quando la situazione non è controllabile io emigrerei in Groenlandia subito. Comunque, col freddo. Alfredo rinfresca le idee. Sì. Nicola da Brescia ci chiama. Buongiorno Nicola. Buongiorno, buongiorno. Ecco, vuole urlare anche lei? No. No, meno male. Sarò più pacato. Va bene. No, io sono rimasto un po' basito, vabbè, dalla situazione che si è creata, però io anch'io mi ritengo cristiano, però diciamo che non è che se una persona si ritiene cristiano dice di andare a messa o frequentare la parrocchia in automatico quello che dice lo dice, diciamo, perché è stato bagnato dallo Spirito Santo e tutto quello che dirà sarà esattamente coerente. Capita di sbagliare anche chi si professa cristiano, insomma. Beh, e quello che io nel a senso tutti. Che esatto, e soprattutto quando sento queste cose dette, insomma, che si crea di discriminazione. Io per esempio sono cristiano di Brescia, quindi sono compaesano del Gandolfini, che ho avuto modo anche di conoscere. Mm-hmm. E devo ammettere che io sono innanzitutto sono altamente favorevole a quello che è stato fatto, perché è altamente vero che c'era una discriminazione nel confronto di persone che non la pensavano, diciamo, possono non pensarla come magari come la pensano i cristiani, però stiamo parlando di un ordinamento, non del diritto canonico, stiamo parlando di diritto civile. Io sono dell'idea che non si sta decidendo se permettere agli omosessuali di sposarsi in chiesa, stiamo dicendo se sono delle persone che già adesso comunque convivono e fanno giustamente tutto quello che desiderano fare perché si amano, perché è amore, non sto lì a dire che loro non è amore, e allora lo Stato non deve tutelarli. È questo che è follia pensare che lo Stato non li tuteli. E anche stessa cosa per i bambini, si dice che è una porcheria, sì, per i bambini, che li rovineranno, ma io sto pensando, di fatto queste persone già adesso convivono sotto lo stesso tetto, di fatto se ci sono dei bambini vivono con loro. Non è che sto avvallando una cosa, semplicemente ci sono dei bambini che non hanno... Bisognerebbe normare una situazione che c'è già, quello che ci ha detto prima Melita Cavallo, di fatto. Va bene Nicola, no, la ringraziamo perché dobbiamo un attimo stringere, anche perché dobbiamo parlare di un altro tema, anche se a questo punto potremmo andare avanti a parlare ore e ore e ore di questo tema. Ma ci ha incuriosito, caro Oscar, quello che ieri il professor Luca Antonini ha scritto su Panorama, e riguarda il canone della RAI, un tema non molto caro ai nostri ascoltatori. E che di qui a luglio diventerà sempre più... Sì. A luglio in teoria c'è la prima rata. No, come in teoria? No, in teoria dico solo perché bisogna vedere se hanno risolto tutti i problemi che sono oggi totalmente risolti. Ah, è passato sì. Il termine del decreto col quale dare istruzioni alle società elettriche che gestiscono il servizio di come fare per trattare i dati, e non è stato ancora reso noto il modulo di autodichiarazione per chi ha la residenza che non coincide con l'utenza elettrica, che sono i presupposti per la legittimità del pagamento. Quindi noi non possiamo nel frattempo dichiarare, non ce lo dovete chiedere se le cose non coincidono, perché finché non ci danno il modulo non si può fare. Quindi i problemi sono irrisolti. Io temo che ci siano impugnative di fronte a moltissimi problemi in Italia. Ma il professor Luca Antonini, che è con noi, buongiorno professore. Buongiorno a voi. Eccoci buongiorno qui. Propone addirittura lui, per una serie di motivazioni che adesso ci spiega, di fare, come definirla, uno sciopero del canone RAI, un non pagare una parte del canone RAI, una protesta, come la vuole definire lei, professor Antonini? Sì, una protesta fiscale che poi sfoci una class action che a questo punto diventa legittima, questo si può fare benissimo. E d'altra parte io penso che abbiano fatto un inciuccio, e come diceva adesso anche Oscar, non riescono a uscirne, sono infilati in un ginepraio e si stanno rendendo conto che quello che hanno fatto non sta né in cielo né in terra. Ovviamente questi hanno modificato il decreto del Regio decreto del 1938, che tra l'altro è stato emanato da Vittorio Emanuele III, re d'Italia, imperatore d'Etiopia, quindi stiamo parlando del decreto del 1938, e ci hanno infilato dentro queste nuove norme con la legge di stabilità. Nuove norme che dicono che il canone RAI si paga con la bolletta. Quel canone RAI istituito nel 1938 si paga con la bolletta dell'energia elettrica. Sì. Ma oggi il mercato è liberalizzato, quindi tu puoi avere tanti gestori, puoi cambiarli in corso d'anno. Quindi non è una stabilità di rapporto in cui dici prendono un filo lì, perché possono succedere tutta una serie di eventi estremamente complessi. Inoltre, ma si può mettere quello che la Corte Costituzionale definisce un'imposta nella bolletta elettrica, che io pago per un servizio, quindi è un corrispettivo per un servizio? Stiamo mischiando due cose completamente diverse. Sì. Come se un domani, allora perché non si legittima l'IMU nella bolletta dell'energia elettrica? Anche lì c'è tanta evasione. Oppure il bollo auto. Quanta evasione c'è del bollo auto? Perché non lo mettiamo nella fattura che ci fa il gommista? Allora obblighiamo il gommista a metterci dentro, a controllare se ho pagato regolarmente il bollo auto. Queste sono le premesse delle storture, appunto, che lei vede. E quindi per arrivare a dire non la paghiamo, non ne paghiamo una parte. No, io propongo poi la terza cosa, la terza stortura enorme, secondo me macroscopica, è mi costringi a un'autodichiarazione che io non ho televisore, in cui io incorro nella sanzione penale. Penale, bravo. Penale. Ma quando io faccio la dichiarazione dei redditi e nascondo una cifra che può essere 50.000 euro di reddito o il reddito fino a 50.000 euro che mi arriva da un immobile, quindi nascondo l'immobile, io non devo autocertificare che quello che ho scritto corrisponde a verità, capisce? Quindi non ho sanzioni penali. E invece per nascondere un televisore che magari costa 150 euro, 200 euro... È una sanzione penale. Io ho la sanzione penale. Ditemi se questo è ragionevole. Questa è una rottura della razionalità dell'ordinamento, esatto. E determina l'illegittimità di una norma che dica questo. È quello che diceva Oscar, anche che dicevi tu quando è stata fatta questa norma. Viste e stante tutte queste illegittime posizioni, esatto, da parte dello Stato, la risposta dei cittadini potrebbe essere quella di o non pagarlo. Non ho capito però perché non pagare una quota. Costituire delle basi legali, quindi pubbliche, per poi come avere si vede, ragione, come anche per contestare in sede legale, a fronte allo Stato, quindi in tutte le sedi in cui il nostro ordinamento lo consente, i presupposti sbagliati dello strumento relativo identificato dalla politica per pagare, delle modalità, delle conseguenze, cioè delle sanzioni. Quindi, come si vede, c'è una bella lista di solidi argomenti, certo, giuridici da far valere. Ah, ma questo sì. Io una cosa che non è che non l'ho capita, l'ho letta, però vorrei che la spiegasse ai nostri ascoltatori, professor Antonini, è perché lei propone di pagare, non di non pagare tutto, ma di pagare magari 20 o 30 euro in meno rispetto ai 100 che ci chiede lo Stato. Sì, questa è a tutela del consumatore. Cioè io direi non pagare tutto, paga 20 euro in meno. In questo modo, scrivendo, allegando una dichiarazione in cui si dice che io non guardo la RAI e sono disponibile a farmi criptare anche il segnale della RAI, pago 20 euro in meno per evitare sanzioni, in ogni caso una sanzione inferiore, perché la sanzione verrà, allora a quel punto l'Agenzia delle Entrate mi manderà una contestazione, un avviso d'accertamento, dice mancano 20 euro, quindi la sanzione sarà 5 euro, capisci? Cioè, quindi in modo che la sanzione non sia sull'intero che non ho pagato, ma semplicemente su un pezzettino, che poi dopo mettiamo che vada male, se sono più tutelato, potrebbe, certo, andare magari male in un primo grado, poi se può essere la Corte e ovviamente fare ricorso su questa quindi, contestazione che arriva. Io suggerirei questo, cioè pagare 20 euro in meno, a luglio arriverà le prime sei rate, quindi saranno 50 euro, io ne pago 30 e gli mando la letterina, capito? Dopo l'Agenzia delle Entrate, se lo faranno, perché penso che abbiano anche una certa timore, anche oggi non facevano gli accertamenti sul canone RAI, ne facevano pochissimi perché in ogni caso sapevano che già anche la disciplina di oggi non è troppo forte da tenere, secondo me, a livello di Corte Costituzionale, e quindi in questo modo si attiva la questione. A quel punto si possono riunire i ricorsi, cioè si riuniscono i ricorsi e diventa una specie di class action tributaria che la Cassazione quasi un ricorso collettivo che la Cassazione ha legittimato. So, mi sono in contatto anche con l'associazione dei consumatori e probabilmente partiremo anche con proprio l'azione. Ah, cioè, per un'iniziativa, non è che parte da lei come idea, proprio volete farla, organizzarla. No, è partita da me, ha ottenuto parecchi consensi sia a livello politico sia a livello appunto dell'associazione dei consumatori. Si sta creando, diciamo, un gruppo di reazione a questa che mi sembra veramente una pessima trovata, proprio allucinante. Dico, allora, se andiamo di questo passo, un domani comune nella bolletta elettrica, perché il presupposto è questo: siccome c'è tanta evasione, se tu hai l'elettricità, vuol dire probabilmente c'è il televisore, certo. Beh, allora facciamolo anche ma c'è, nasce così casa, per contrastare l'evasione. Scusa, ma non tiene questo ragionamento. Comunque, sane iniziative legali dichiarate pubbliche dal basso contro gli eccessi di uno Stato che ti pretende subito. Questa è la mia categoria di questo tipo di iniziative. No, ma da questo punto di vista è fatto. Il merito è quello di esporsi e dire facciamo così, lo dichiariamo sulla base di questi principi che sono costituzionale, il professor Antonini insegna diritto costituzionale a Padova e quindi insomma la portate avanti e, insomma, professore, ne vedremo da qui a luglio delle belle, ne vedremo, ecco, su questa storia. Ma anche perché poi dopo io sono andato a rileggere il parere dell'antitrust, no? Che è stato presentato, dice l'antitrust ha legittimato, calma, l'antitrust dice che la struttura attuale della RAI che si finanzia sia con la pubblicità sia col contributo pubblico, per esempio a differenza dell'emittente inglese la BBC che invece è solo con contributo pubblico, non mischia le due cose. Tra l'altro la RAI si finanzia, tra le altre emittenti europee pubbliche, quella che si finanzia di più con le pubblicità. Quindi mischia le forme di finanziamento e dice non è detto che si riesca, e lo dice anche la Corte dei Conti, perché l'entità si riporta alla Corte dei Conti, che il contributo pubblico possa essere gestito in modo trasparente, cioè per le finalità pubbliche. E allora io come cittadino e anche come professore dico calma, qui ci sono dei segnali, dei campanelli d'allarme che le stesse istituzioni mi evidenziano, e che la politica fa finta di non vederlo. Appunto, non facciamo finta di non vederlo. Va bene, allora professore, noi la ringraziamo, Luca Antonini, e staremo a vedere. Io dunque, mi iscrivo fin d'ora. Tu ti iscrivi già? Sì, metti già la prequota, non c'è dubbio. Va bene, ci dobbiamo fermare qui. Tu oggi pomeriggio sei alle 16.30, come anche sempre. Domani mattina, eccetera. Comunque, un buon fine settimana a tutti. A tutti, ciao.